Ciao a tutti, ecco, siamo qui alla quarta puntata di One Tree Boots One Shoe. E oggi puntata in solitaria per me, NN, Gramenco, attualmente sta ritornando da Milano, è andato alla festa delle palestre popolari. Oggi puntata abbastanza interessante a mio avviso, inizieremo un altro ciclo parallelo a quello che abbiamo detto nella scorsa puntata, cioè quello inerente alle autoproduzioni e nel caso specifico di oggi vedremo quelle autoproduzioni coprodotte da una distro DIY e una label DIY di Modena chiamata l'SDK. Abbiamo fatto un'intervista con il gestore di questa distro DIY e se vi manca la voce di Gramenco la potete ascoltare nell'intervista che manderemo a breve. Niente, penso che il discorso sull'autoproduzione e sul DIY sia molto importante per quanto riguarda la scena punk. E viene sviscerato e spiegato in maniera molto chiara dal gestore di questa label che adesso andremo a sentire la sua intervista. Che ti è venuto in mente di mettere su una distro autoprodotta? Allora, l'idea nasce più che altro da un'esigenza. Dato che io all'epoca avevo tre band, con le quali comunque avevamo un po' di materiale da buttare fuori, e onde evitare di passare per etichette più grosse o deleghe varie, ho deciso di abbracciare questa cosa qua dell'autoproduzione e del farsi le cose da sé, anche per appunto dare spazio a quello che, al materiale che avevamo appunto registrato e soprattutto anche con un occhio al futuro per supportare comunque tutte quelle realtà, quelle piccole band che non trovano spazio in etichette, dargli una mano comunque a venire fuori e portare fuori i propri lavori. E da quanto esiste questa distro autoprodotto? Allora, la Ziché è nata come etichetta, è nata nel 2007, appunto tipo verso maggio-giugno, che ho buttato fuori la prima produzione di uno dei miei progetti che avevo all'epoca, anche se in realtà come distro c'era fuori già da un paio d'anni, che avevo un piccolo banchetto con qualche toppa, qualche CD, qualche vinile. E dopodiché appunto ho iniziato ad abbracciare questa cosa delle produzioni di vario genere, insomma. Cioè, se penso alle produzioni di Ricky Festa, alla fine. Sì, assolutamente sì. Il discorso l'ho appunto buttato fuori. I primi lavori ovviamente sono stati quelli dei miei progetti vecchi. E poi pian piano, ovviamente facendoti un nome, ho iniziato ad arrivare richieste da altre band, e appunto di una richiesta di coproduzione, ne ho buttate fuori diverse nel giro degli anni. E da quanto che esiste? E di che appunto è nata 10 anni fa, nel 2007. E come mai hai scelto proprio questo nome, Last Decade? Allora, il nome in realtà non ha un vero e proprio perché o per come. Fondamentalmente in quel periodo lì ero più giovane, vedevo un po' le cose molto più scure e vedevo parecchio il nero, diciamo, e quindi fondamentalmente il concetto era proprio l'ultima decomposizione. E mi piaceva in quel periodo lì, cioè mi rispecchiavo un po'. Dopo ho deciso di non cambiarlo, nonostante le mie visioni poi sulla vita sono ovviamente cambiate, però ho deciso di tenere il nome appunto perché è nato da quello che ero, anche se è mutato un po' parecchio pensiero, diciamo, e insomma è nato da lì, quindi ho deciso di tenerlo. E organizzi pure serate con questa etichetta? Sì, qua la situazione è, allora, io ho sempre diversi anni che organizzo concerti. Tante volte non li organizzo proprio come etichetta, perché non mi piace alle volte mettere su delle bandierine, perché sembra quasi che nell'organizzazione di un concerto ci deve mettere tipo il cappello, diciamo, quindi andando a precludere magari gente che potrebbe essere interessata a darti una mano a organizzare. Quindi per questo allora ho creato questa roba dei concerti su il reverse, che era nata come diciamo non so neanche come chiamarla, insomma comunque come linea di serate che andavano a tirarsi soldi per compagni, per denunce o comunque in appoggio a situazioni politiche. Io faccio anche comunque serate come la VK, però tendo a mirarle appunto se c'è un release party, se c'è, adesso ho fatto a ottobre 10 anni dell'etichetta appunto, e, però appunto tante volte non preferisco non mettere fuori il nome, cioè creare proprio l'evento come la VK, ma crearlo sotto altre forme, anche se poi dietro l'organizzazione comunque ci sono io. Interessante, interessante. E dimmi un po', quei gruppi che hai co-prodotto ti stanno più al cuore? Allora, dei gruppi che ho co-prodotto, sicuramente per me, cioè, la volta che sono riuscito a co-produrre gli Obofobi, per me è stato una roba veramente che mi ha reso veramente orgoglioso. Perché quando ho iniziato a girare per concerti, per spazi sociali, così, e uno dei primi gruppi che conobbi furono appunto gli Obofobi. Dopo col corso degli anni, cioè uno dei primi concerti che ho organizzato, è organizzato appunto gli Obofobi nel 2003, penso, e che ci suonammo tra l'altro anche insieme con un mio vecchissimo progetto. E insomma, quando dopo nel corso degli anni siamo andati comunque a creare dei rapporti anche umani con loro, e nonostante appunto per me a livello più personale sono una grandissima band e sono veramente le splendide persone, poi ovvio ti potrei anche dire il gruppo che, sicuramente il gruppo che mi sta più a cuore sono loro. Poi ovviamente anche di tutti i miei progetti che ho avuto, forse la prima produzione di Love Decay, che fu appunto un mio progetto, è quella che mi è rimasta più nel cuore, perché appunto fu la prima e fu uno dei gruppi col quale, cioè del quale tengo più ricordi, che mi porto dietro più ricordi, insomma. E cosa ne pensi di Attitudine attraverso una distro? Perché alla fine non è così scontato che uno mette su una distro e abbia anche un senso di Attitudine attraverso i CD che produce, eccetera. Allora, secondo me questa domanda è molto molto un casino. Perché l'Attitudine, cioè io penso che comunque dal momento che decidi di mettere su un'etichetta e di stare dentro determinati spazi o comunque circuiti, penso che comunque l'Attitudine già ce l'hai abbastanza formata. Oggi l'autoproduzione, vuoi per internet, vuoi per non so a che cazzo, però alla gente sinceramente gli interessa fino a un certo punto, guardare o conoscere gruppi. Cioè, fondamentalmente la faccio, cerco di farla più facile possibile, e se tu produci un disco di un gruppo che comunque è già conosciuto, già in vola, così, è ovvio che te lo comprano. Io mi ricordo i primi tempi che giravo, tante volte prendevi dalle distro, compravi dischi che non sapevi assolutamente chi cazzo fossero. Però appunto dicevi, boh, non so, magari ti colpiva la copertina, magari boh, avevi voglia di prendere qualcosa e lo prendevi a casa, però proprio la scoperta di un gruppo nuovo, di un gruppo emergente, oggi sta cosa qua non c'è più. Lo accetti perché comunque boh, forse i tempi sono cambiati, forse è un pelo di nostalgia mia, però l'attitudine oggi è cercare di, secondo me, cercare di preservare quello che di buono è rimasto nella scena, perché tanta gente ti dice magari la scena è morta, in realtà non è vero, è semplicemente mutata. Cioè, io parlo con un sacco di persone che ti dicono appunto no, la scena non esiste più, no, in realtà non è che non esiste più, la scena è mutata da come se la ricordavano noi, e ci sta, è legittima la cosa, perché ovviamente cambiano le persone, cambiano le generazioni, e secondo me è anche giusto che cambiano anche a livello musicale. Forse una cosa che le nostre generazioni, le mie generazioni hanno sbagliato a non passare quel tipo di attitudine che dovrebbe esserci, però penso che comunque nulla sia perduto. Il discorso è basta che la gente continui a dialogare fra di loro, insomma, a parlare, anche solo a raccontarsi esperienze, insomma. Certo, certo. E guarda, dimmi un po' se ti va di mandare un messaggio a chi vuole mettere su un avvistro, diciamo, del nostro giro. Oggi, a parte che sinceramente ce ne sarebbe veramente bisogno, perché secondo me di etichette ovviamente ce ne sono poche, e soprattutto una roba che secondo me manca, anche se ultimamente sto vedendo che qualcosa sta tornando fuori, le fanzine. E secondo me mettere su una distro è uno sbattimento, cioè un'etichetta o una distro è uno sbattimento della Madonna, è una roba che comunque ti porta via tempo, una roba che ti impegna, perché comunque nelle serate devi, se vuoi far girare i dischi, perché se no ti rimangono più in cantina, fondamentalmente, sono impegni, un impegno che ti devi prendere, però sicuramente la soddisfazione anche solo di parlare con la gente, di dare una mano, di vedere il prodotto di un gruppo che magari senza il tuo aiuto sarebbe magari venuto fuori lo stesso, ma sicuramente sarebbe girato meno, insomma, dà parecchia soddisfazione. Ottimo, ottimo. Guarda, ti ringrazio di aver perso questi minuti per questa intervista, veramente. Niente, ti ringrazio di cuore. No, guarda, grazie a voi. Bellissima storia questa cosa qua che state facendo, perché secondo me è una cosa parecchio importante. Grazie, grazie. Ringraziamo di nuovo il Last Decay per questa bellissima intervista, dove si sono toccati un po' tutti quelli che sono i punti importanti per quello che riguarda l'autoproduzione e il DIY. Quindi in primis l'attitudine, in secondo luogo è quello di non avere comunque ingerenza da quelle che sono le grandi label, e per avere poi un prodotto nelle mani che suona al 100% come gli artisti lo hanno pensato prima col cervello e poi lo sentono con il cuore. Bene, all'interno dell'intervista abbiamo ascoltato che questa distro e questa etichetta parte nel 2007. E abbiamo il primo brano che facciamo ascoltare è proprio i primi brani che sono stati registrati da questi. E sono alcune tracce di una band hardcore di Modena che si chiamano i Right Now Work Later. A me risulta questa band, se non sbaglio, si attiva dal 2005 fino al 2010. La traccia in questione si chiama Orrore. Questa è Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Bellissime scariche di 1:30 di pura violenza. La puntata di oggi sarà incentrata su, più che altro sull'hardcore old school italiano, che vede un grande ambito all'interno dell'autoproduzione. Vorrei salutare nel frangente il mio compare Gramenco, il compare di trasmissione. Avete potuto ascoltare la sua sexy voce durante l'intervista. E promessa che li faccio, non infamerò nessuno oggi e farò il bravo bimbo come mi ha scritto più volte in questa settimana. Bene, il secondo gruppo che presentiamo è il gruppo che è stato menzionato più volte durante l'intervista. Sono gli Obophobic, che sono un gruppo tarantino, precisamente di Crispiano, e sono attivi dal 1996. Questa band ha alle spalle due demo tape, tre album che sono Rabbia e Rancore del 2004, I Sogni a Naufragare del 2005 e Portami Lontano da Qui del 2013, che è appunto un album coprodotto dalla Last Decay. Quando dico coprodotto non significa che la Last Decay sia l'unica label a coprodurre, quindi ad aiutare la band a far uscire il prodotto sul mercato, ma ce ne sono un'infinità su ogni album di varie label DIY che supportano questi gruppi. E questo gruppo ha inoltre registrato nel 2008 un interessantissimo split con uno dei gruppi storici della scena hardcore del sud Italia, che sono i So Fucked Confused. Questo split è intitolato 15 e 10 anni con un coltello puntato alla gola. Gli Obophobic è un gruppo che a me piace molto personalmente, che hanno un bel militant hardcore molto tagliente. Il brano che vi presenteremo è estratto appunto da Portami Lontano da Qui, che mi risulta essere forse il loro ultimo lavoro, non ne sono sicuro al 100%, ed è veramente un bel album hardcore. La traccia in questione si intitola È il volo. Uno dei miei suggerimenti che do a voi ascoltatori è quello di trovare quest'album, quindi Portami Lontano da Qui, e iniziarlo ad ascoltare al loop. È veramente un album interessantissimo. Obophobic, In Volo, questa era The Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Aspetto qualcosa che schiava come nessun altro. Trovo un volo leggero che uccide. Aspetto qualcosa, aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Come un volo leggero che uccide. Aspetta qualcosa, aspetta qualcosa che forse non verrà mai. Rifletto nel visto, affondo le unghie affilate nel petto. Non riesco a pensare, non riesco a capire il momento giusto, il modo di agire. Lo vedo il riflesso, la rabbia di amore che brucia per questo. Adesso è tutto più semplice, semplice. Sono un volo leggero che uccide. Aspetta qualcosa, aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Bellissimo questo brano, Il Volo, ricordo degli Obophobic. Bene, restiamo sempre nel sud Italia. Ci spostiamo semplicemente da provincia di Taranto a Catanzaro. Il prossimo gruppo sono gli Shameless e sono nati nel 2013. Appunto il loro primo album omonimo, Shameless, a me piace veramente tanto. Non dura tantissimo come tutti gli album hardcore italiani, con pezzi di un minuto, due minuti al massimo, con ritmi serratissimi di batteria, che sono dove veramente il batterista non diniega neanche l'utilizzo del doppio pedale, con uniti a testi che parlano di odio, solitudine, oppressione, cioè un vero hardcore old school. Se non ricordo male, quest'album mi risulta essere uscito nel 2015 e anche questo coprodotto dalla Last Decay. All'interno di questo brano penso che il pezzo, a mio avviso, più interessante sia appunto Semi d'odio, che andremo ad ascoltare. Questi sono gli Shameless con Semi d'odio su Radio Wombat. 1-3 boots 1-2 Poi quando si parla di Sud Italia, potete forse notare dal mio accento, io non posso essere totalmente super partes. Bene, questo erano gli Shameless con Semi di odio. Adesso cambiamo totalmente, ci spostiamo dall'altra parte dello stivale e più precisamente a Trento. Trento presenta una scena hardcore veramente bellissima e in pieno fermento. La band di cui vi faremo ascoltare la prossima traccia si chiamano I Congegno, sono nati alla fine del 2008 ed hanno registrato un EP nel 2010 dal titolo Esiste una cura e un album nel 2013 di nome Metamorfosi. Cosa da non poco conto, soprattutto nell'ambito dell'hardcore, è la profondità dei testi che questo gruppo ha. Esempio esplicativo è proprio il brano che vi faremo ascoltare. Si tratta infatti della quinta traccia dell'album Metamorfosi, che si intitola A Social Network. Il brano, come potete anche capire dal titolo della traccia, è molto diretto e parla dello squallore dei social network, delle foto messe per raccogliere manciate di mi piace e dei discorsi banali portati avanti dai cosiddetti leoni da tastiera. E il finale di questo brano è qualcosa che di veramente stupendo. Il brano si conclude con la frase: non siamo in grado di sostenere rapporti stabili, non li abbiamo avuti, tutti amici ma poi chi cazzo sei? Bellissima. Questa è I Congegno con la Social Network su Radio Wombat, 1-3 Boots, 1-2. Stupenda veramente, un brano da far rizzare i peli del culo. Non so a voi, ma I Congegno a me portano molto alla mente le sonorità dei milanesi Sotto Pressione, gruppo storico dell'hardcore italiano. E non fraintendetemi, questo non è assolutamente una cosa negativa, ma anzi per me è un complimentone. Rimaniamo ancora a Trento con una band che d'altronde ha registrato anche uno split con I Congegno, se non sbaglio uscito nel 2010. Effettivamente, cioè, la scena di Trento, come abbiamo già detto, sforna una qualità incredibile di gruppi e questo gruppo non è da meno. Sono anche loro, come Congegno, nascono nel 2008 e stiamo parlando degli Attrito. A mio avviso uno delle band hardcore più attive e apprezzate dal panorama punk hardcore nostrano attuale. Ogni parola, secondo me, è sprecata per identificare il loro hardcore old school vecchia bandiera. Godetevi l'altro esistente, una traccia tratta dall'album Triste Opera Itinerante, che è uscita nel 2011. Attrito, l'altro esistente, Radio Wombat 1-3 Boots 1-2. Questi erano gli Attrito con l'altro esistente. Esistente. Madonna, scusatemi questa. Il mio meridionalismo che arriva ogni tanto con il mio accento. Ah, scusatemi. Ho fatto un grandissimo No, va bene. Era giusto. E il prossimo gruppo che andremo ad ascoltare ha delle sonorità molto vicine a quelle dell'Attrito, oltre comunque a rievocare i suoni dell'Ingegno e i soli di Soppressione. Questi vengono da Como, sono i Zona d'Ombra e nascono nel 2011. Il loro album Guerra all'Apatia è stato coprodotto dalla Last Decay e a mio avviso è un ottimo album di hardcore old school nostrano. E la traccia che andremo a prendere da quest'album, appunto, è Arrendersi a Vivere. I Zona d'Ombra, Arrendersi a Vivere, su Radio Wombat, 1-3 Boots. 1-2. Thank you. Bene, puntata oggi molto diretta, puntata dove parleremo poco e vi faremo sentire ancora meno, perché tutti i brani dureranno un minuto e mezzo, massimo tre minuti. Sono schegge di pura follia sonora, di grande impatto, grande direttività. Rimaniamo nell'ambito old school hardcore, che a me piace veramente tanto, e ho preso la palla al balzo visto che il mio compare Gramenco non è qui presente, forse lo vedrò apparire in teletrasporto nel giro di 35 secondi per picchiarmi e per non mettere il suo caro Oi Punk, che, cioè, da premettere, lo amo tantissimo. Rimaniamo quindi sull'old school, come abbiamo detto, ma ci spostiamo di città. Andiamo a Milano e questo è un gruppo che nasce nel 1999 col nome di Rifiuti. Nasce nel centro sociale Deposito Bulk, sono lì RFT. È una band che ha totalizzato più di 200 concerti in tutta Italia. Hanno diviso il palco con gruppi del calibro di Murphy's Law, il Ratos de Paroa, di Porao, gli Angelic Upstairs, Zero Boys, Curaia e molti altri. Chiara è l'attitudine DIY ed è il loro marchio di fabbrica, che ha caratterizzato tutte le loro scelte, il loro modo di essere e il loro personalissimo modo di intendere la musica. Inizialmente si rifacevano a un hardcore punk nostrano, per poi via via spostarsi verso un hardcore di stampo newyorkese e con tratti metalcore. Quindi nel loro sound possiamo trovare sonorità dei nostrani Negazione, degli Indigesti e dei Sottopressione, oltre comunque a gruppi newyorkesi come i Murphy's Law o per esempio i GBH. Il brano che vi faremo ascoltare adesso è tratto dal lavoro del 2013 che si intitola Resiste, e il brano in questione è Freddo. Ricordo che il CD è scaricabile dal sito del gruppo, ma inoltre la band, curiosità, ha stampato 100 copie di questo CD in versione, cofanetto, dove oltre al CD è allegato un kit di sopravvivenza appunto per resistere. Questo è Freddo degli RFT su Radio Wombat 13 Boots. 1, 2. Una volta guardavo nei miei sogni. Oggi ho sta paura, oggi ho sta paura. Parole intricate e distorte fanno dei miei pensieri una costante nota di strante. Una direzione capace di chiedere solo nella mia testa, solo nella mia testa, solo nella mia testa, solo nella mia testa. Io non so più costruire, io so solo leggere al posto degli altri. Io non provo quasi niente, io so solo male. Ecco, questi erano gli RFT con Freddo. Come avevo detto poc'anzi, c'è stato il teletrasporto di Gramenco. E da Milano si è teletrasportato come Goku direttamente qui all'interno dello studio della Wombat Radio per farci sentire la sua voce sexy, come avevo detto durante buonasera. La puntata. Buonasera, Gramenco, come va? Abbastanza bene, via, abbastanza bene. Allora, Gramenco, raccontaci brevemente, che sei andato a fare a Milano? Beh, a Milano sono andato con la San Pietrino, la palestra popolare del centro sociale Next Emerson, che ci stava all'incontro di tutte le palestre popolari d'Italia. È stata una bella iniziativa con un'assemblea delle palestre popolari o palestre del basso d'Italia e più pure una palestra di Madrid. È stata una bella iniziativa. C'è stato pure 10 incontri di ambo sessi, sia maschio che femmina. Ti hanno picchiato? No. È stata una bella iniziativa e dopo c'è stata una breve serata, però con pieno di persone. Ma la cosa granza, che è stata veramente bellissima come cosa, che ci stava pure schermo fuori per far vedere alle persone fuori gli incontri. Cioè una cosa veramente figa, cioè... figa, visto che eravamo a Milano, figa, no? Infatti la cosa più figa di oggi sono stati questi 45 minuti in solitaria della puntata, che adesso continueremo. E il prossimo gruppo che metteremo sono La Prospettiva. Grandissimi. Che è un gruppo, ritorneremo in Emilia Romagna sul DIY. E con uno split degli appunto La Prospettiva e Il Tumulto, che è stato uno split benefit fatto per i denunciati dell'occupazione del Maceria di Forlì, che è stato registrato nel 2013, coprodotto sempre dal Last Decay. La Prospettiva ha un attivo un EP, un LP che si chiama Inquieti Tempi, e in questo split presentano tre gran bei pezzi con un gran bel tiro, e tra questi tre pezzi io preferisco sicuramente Il Giorno Che Ritorno, che vi faremo ascoltare. Però scusate, volevo ringraziare tanto Michele della Last Decay, che ha usato diciamo una decina di minuti del suo tempo personale per un'intervista abbastanza golosona, potremmo dire. Con la voce sexy di Gramenco in sottofondo a fare domande. Allora, questa è La Prospettiva, Il Giorno Che Ritorna, Radio Wombat, 1-3. One Boots. Boots, 1-2. Scusate. Botta di potenza allo stato. Sì, esatto. Come dice il vecchio detto? Come dice il vecchio detto? Dai, lo sai anche te. No, dillo tu. No, dillo te. Dai, dillo. Non lo so. Tralasciamo nella prossima puntata questa... Perfetto, ci penseremo una settimana a questo vecchio detto. Abbiamo detto che il secondo gruppo che fa parte di questo split sono i Tumulto e vi faremo ascoltare anche un pezzo scritto da loro presente in questo split. Esatto. Se non sbaglio, hanno prodotto un EP intitolato Riflesso Incondizionato. Non ti sbagli per niente. Grande NN. E potete, ascoltando questo split dall'inizio alla fine, noterete la differenza tra i due gruppi. La prospettiva è molto più diretta, molto più tirato. I Tumulto hanno un suono leggermente più dilatato e una timbrica vocale molto più cupa. Quindi è molto chiara la distinzione tra i due gruppi, che hanno una grande personalità. Entrambi hanno una grande personalità. Il pezzo che ho scelto io dei Tumulto è Come Quando Abbiamo Perso il Cielo, un gran bellissimo pezzo e un grandissimo testo, a mio avviso. Vuoi aggiungere qualcosa, Gramenco? Mettiamo la canzone. Grande. Che ancora non ho caricato. Mi sono fatto prendere troppo la mano dal pezzo e la prospettiva. Eccolo, sta arrivando. È sempre una prospettiva. Come Quando Abbiamo Perso il Cielo, Tumulto su Radio Wombat. 1-3 Boots. 1-2 Questa era Come Quando Avremo Perso il Cielo dei Tumulto. E un altro, il prossimo pezzo è di un gruppo nato a Marzaglia, nello spazio sociale libertario anarchico Libera, in provincia grande di Libera, un bel posto, veramente un bel posto. E il gruppo si chiamava originariamente La Grande Crisi e hanno modificato poi il moniker in Fratelli Grimm. Famosissimi Fratelli Grimm per aver scritto delle storie, dei racconti basati sui racconti popolari. E l'intenzione di questo gruppo è proprio quello di scrivere e mettere in musica la vita e i racconti della gente comune, in modo da far in modo che tutti noi possiamo riconoscersi nei propri brani. Forte l'attitudine DIY del gruppo. Infatti sul loro blog, che vi invito a visitare, capeggio una scritta su ogni pagina che dice no copyright, fanculo la SIAE. Quindi un'attitudine diretta, punk e DIY. Quest'album, Città Profonda, è stato coprodotto dalla Last DK un'altra volta, come tutti il fil rouge dei brani che abbiamo fatto ascoltare. Da premettere che quando si parla di coproduzione di un album DIY non c'è solo un'etichetta, ma ci sono un'infinità di etichette, esatto, che esatto, coproducono, che danno un supporto alla band per far uscire l'album. E questa puntata è dedicata ai Last DK, quindi ci siamo focalizzati su di loro, senza comunque citare tutte le etichette che hanno aiutato questi gruppi, che sono... Si parla sempre di 10-12 etichette autoprodotte, avremmo perso... Ma no, magari 10-12 etichette, perché alla fine ogni etichetta non è che si basa su un genere, eccetera. Vabbè, ci sono anche le etichette che si basano su tipo la scena oi o la scena punk e così via. Però ci sono delle etichette, per esempio Punti Scena Records di Prato, che non è che si occupa soltanto di hardcore e di punk, si occupa anche di coprodurre gruppi sulla scena power violence e così via. Cioè, e varie etichette coproducono vari tipi di genere, ma sempre una scena DIY. Ma come anche la Last DK, che ha coprodotto un CD di rap dei Compagni di Merenda. Esatto, esatto. E no, quello che stavo dicendo io è che quando diciamo, per esempio, i Fratelli Grimm e l'album, forse in questo caso no, ma quando parliamo dei Tumulto e lo Split, non c'è solo la Last DK che ha coprodotto. Esatto, ma ci esatto. Sono tante varie etichette DIY che hanno coprodotto quell'unico CD. Esatto. Cioè non esatto. È come quando, non so, andiamo a comprare un CD dei NoFX e c'è stata la Fat Wreck Records che ha prodotto quel CD. Esatto, esatto, per fare un esempio. Un esempio. E quindi il brano è tutto l'album si può scaricare comodamente dal sito dei Fratelli Grimm e vi invito calorosamente a farlo. Potete andare anche direttamente su Punk for Free, che lì ci stanno diversi. Questo qui non c'è. Ah no, questo non c'è? Questo non c'è. Ah. Sì, è direttamente sul sito di... Non me l'aspettavo. Dei Fratelli Grimm. Sì, è un album abbastanza di nicchia e... Questo brano è stato una felice scoperta di ieri pomeriggio. Sì. Si chiama Un giorno come l'altro e c'è veramente, a mio avviso, un ottimo connubio tra musica e testo che vi faremo adesso ascoltare. Questi sono i Fratelli Grimm con Un giorno come un altro su Radio Wombat. One, three, boots, one, two. Ebbene, questi erano i Fratelli Grimm con Un giorno come un altro. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro programma, metteremo altre due tracce, dai, altre due tracce le mettiamo. Mettiamo anche quattro, dai. No, non facciamo altre due tracce. Il prossimo brano è Polvere degli Humus, e un'altra band di caro vecchio hardcore, vecchio stile, come è stato il fil rouge di tutta la, la puntata di oggi. Anche se il nome del gruppo ricorda un piatto tipico, però... No, quello è hummus, con due M. Ah, scusa, scusa la mia ignoranza. Il nome del gruppo viene proprio dallo strato più superficiale della Terra, quello che trattiene gli esseri viventi dopo la morte in uno stato di decomposizione. Sì, siamo... Ma c'è della grande cultura, ragazzi. Ragazzi, e questa poi è una metafora che il gruppo dice durante un'intervista delle condizioni che di alcune persone che vivono passivamente la loro esistenza fino ad un lento marcire. Quindi possiamo capire lo stile vecchio, vecchio stampo del loro hardcore. Sono di Ancona e nascono nel 2005 dalle ceneri delle CNC. E... Interessante è lo split che hanno registrato con i Terror Firmer, che sono grandissimi, e con un gruppo crust punk foggiano Inis. Esatto, esatto. A mio avviso è un gruppo che alla fine spacca. I Terror Firmer. I Terror Firmer li ho visti tipo due o tre volte, sempre hanno dimostrato. Loro sono di? Sempre Modena, quel giro lì. Ok. E vi faremo ascoltare Polvere, come abbiamo già detto, che è appunto tratto dallo split nel 2009 che si chiama Specie di Scarto e Senza Coscienza con Inis. Questi sono gli Humus con Polvere su Radio Wombat. 1-3 Boots 1-2. Non siamo altro che Polvere! Dust to dust. Nothing ever. It gets the last of all that is it. Now this is the same bottle. This is not just company. Don't you want to get my man? My name is not just from the business. Don't you want to get my man? My name is not just from the business. Don't you want to get my man? Don't you want to get my man? Don't you want to get my man? Il prossimo brano sarà effettivamente una perla che ci hanno regalato il la Last Decay. È un brano che ancora non è uscito fuori sul mercato. E il brano con cui chiuderemo la trasmissione è dedicato alla DIY label modenese Last Decay. E questo album ci è stato detto che uscirà nel 2018, è di una band Lo Scontro e il pezzo si intitola Davanti a te. Io spero al più presto di poter ascoltare l'album perché il pezzo mi sembra abbastanza interessante. Sì, sì. Hai avuto modo di ascoltarlo, Gramenco? Certo, ho avuto modo di ascoltarlo e... una bomba, una bomba. E a voi... In anteprima mondiale su 1-3 Boots 1-2 lo scontro con Davanti a te. Anteprima mondiale, ragazzi. Cioè, dove lo trovate? Lo dite voi, eh? Come spacchiamo. Su Radio Wombat, lo scontro con Davanti a te. 1 3 boots 1 2 vai. Bene, scusate. Ho fatto una figura di merda. Esatto, esatto. E il mio collega non si era segnato bene il nome del gruppo. Gaffa all'ultimo gruppo. Esatto, esatto. E invece che lo scontro si chiama lo sdegno. Fiammino, dai, eh? Infatti questo gruppo verranno a suonare presso il centro sociale Next Emerson l'8 dicembre insieme ai Rec Off. In Mad, un nuovo gruppo di Pisa che si chiama Gli Ignoranti, cioè un nome che è una garanzia in ogni cosa, e più ci sarà anche la presentazione dell'LP dei Plankton Hardcore, i giovani baluardi della scena punk fiorentina. Sì. Anzi, per la precisione, del Neto. Ok, adesso arriviamo, abbiamo finito il programma. Sì, esatto. E c'è la solita rubrica di eventi la prossima settimana. Esatto. Allora, il prossimo evento, che è esattamente fra 2 giorni, martedì, un concerto organizzato da Smash Sound Collective, in cui suoneranno i White Dog Suicide, i Dyke Letter. E più c'è stata una sorpresa dell'ultimo minuto, per quello che mi hanno detto i ragazzi del collettivo, questo one man band che fa grind proveniente dal Cile, che si chiama Misa Isterica. Cioè un nome che alla fine io assolutamente dice di già la sua appartenenza alla scena crust. Grind è scritto sul flyer, sì, però io sono andato a sentirlo sul Bandcamp e alla fine è molto sul crust che sul grind, eh. Perfetto, un'altra poi da un altro evento da segnarvi sulla vostra agenda è il sabato 18 novembre. Esatto. Si terrà al K100 un Camilo Senfuegos, per la precisione, sì, a Campi Bisenzio. Grazie per la precisione, ci è mancata la tua precisione per un'ora oggi pomeriggio. E avremo un sano concerto OI. Sanissimo, proprio sanissimo. Concerto OI. Cioè proprio che dovete stare in piedi, ascoltare e basta. Due volte. Sì. Anzi, sfido chi riuscirà a stare in piedi durante questo concerto. E avremo un'invasione barbarica da Torino. Infatti scenderanno tre band da Torino. Tre. I Bull Brigade, gli Scontro e... Scontro. E le Garden G. Che è una nuova scoperta della scena street punk torinese. Che sono tutte ragazze tutte che sono... al femminile. Esatto, tutte ragazze che sono in questo gruppo, tutte sulla scena antisessista. Infatti le rispetto molto perché non sono, diciamo, della scena street punk modaiola. Sì, sì. Cioè, ma con l'attitudine giusta. Infatti vi invito a tutti di venire il 18 a scoprire questa nuova band. Oltre che... comunque agli Urban Vietcong. Esatto. Da Livorno e agli Aban da Lecce, un bel viaggio si farà. Vabbè, qua si parla poi di Aban, cioè non gli Aban, di Aban, che alla fine è un personaggio che fa rap. E infatti ha fatto anche una canzone con i Bull Brigade, e qui c'è pure il clip video su YouTube. Se vi va, andatevelo a vedere. Perfetto, noi per oggi avremmo terminato. Io rimetterei in volo degli Obophobic, che a me piace. Gli Obophobic è un gruppo non storico, però diciamo che negli anni che ha suonato hanno fatto il loro. Abbiamo già parlato ampiamente degli Obophobic. Hai detto naturalmente che un membro degli Obophobic è anche il cantante dei Sudi Disorder? Assolutamente no. Ecco. Grazie, Graminco. Niente. E... chiuderei con In Volo, la rifacciamo riascoltare di nuovo perché a me piace veramente tanto come pezzo. Mettiamola e vi salutiamo. Vi salutiamo la prossima domenica con delle grandissime novità. Naturalmente. Che non sveleremo naturalmente, perché non mi piace svelarle, perché voglio evitare di fare figure di merda. Naturalmente, però vi diamo... Diciamo che se avete sentito gli eventi in programma c'entra qualcosa, cioè diciamo che vi abbiamo dato una grandissima dritta. Esatto. E ragazzi, volevo salutare, ci stanno ascoltando dall'Inghilterra. Vorremmo salutare la brigata martanese in Inghilterra. Ciao Lore, salutami Gigi La Furia e tutti, no, erano i miei ex coinquilini e amici di quando ero a Londra, quindi un pezzetto di cuore rimane lì. No, Jack La Furia, ragazzi. No, Gigi La Furia. E niente, mio babbo, come sempre, che mi sta ascoltando, e Casa di Saggio. E poi naturalmente un grazie a voi che ci ascoltate ogni domenica, che perdete un'ora della vostra vita a ascoltare due disagiati del cazzo che non sanno oggi cosa e mezzo fare. Oggi un'e mezzo. Sanno cosa fare, che vi torturano le orecchie con a suono di punk hardcore. Esatto, però se avete notato questa puntata, diciamo, della scena punk OI abbiamo messo ben poco, perché alla fine la scena sia OI che punk non è soltanto creste e teste rasate, ma significa supportare proprio la scena Do It Yourself, perché se no non si tratterebbe di scena, secondo me. Infatti vorrei prendere alla fine della puntata il messaggio che è stato mandato da Miki durante l'intervista, che è quello di continuare a sostenere la scena, come abbiamo detto da tutte le puntate fino ad ora, è quello di scoprire nuovi gruppi. I nuovi gruppi come si scoprono? Come lo possiamo scoprire? Andando nei banchetti delle distro DIY e comprando dischi a caso. E... no, anche dischi a caso è brutto da dire, perché alla fine oramai la maggior parte dei nomi si sanno, quelli più grossi della scena Do It Yourself, no? Naturalmente si potrebbe andare a un distro, no? E dire, ma tipo ci sono dei gruppi che sono pochi conosciuti, eccetera, perché io personalmente qualche volta l'ho fatto e diverse volte sono rimasto basito dai gruppi. Anche io. Cioè, che si trova sulla scena di Do It Yourself, come avete potuto ascoltare oggi con un grande spaccato di questa scena, che abbiamo coperto un po' tutto il territorio nazionale, che sono tutti brani di un di gruppi abbastanza bravi, ottimi gruppi. Sì, molto. A parte l'ultimo gruppo che alla fine è stato registrato proprio in sala prove con un telefono. Infatti si può ascoltare che dici vai, si entra nel pacchetto. Esatto. Ed è stupendo anche questo, anche punk. Esatto, questo è punk, cioè fregarsi della registrazione se è fatta proprio in sala prove con il tipo che sta dietro al mixer o fatto con un cellulare da 20 euro e così via, o proprio il garage sotto casa. Il punk è attitudine. È attitudine, non si tratta di fare i pezzi ben registrati, di avere soltanto creste colorate, eccetera, eccetera. È attitudine, come... prendo una famosa citazione, il punk non si vede dalla cresta, ma si vede dalla testa. Perfetto, grande Gramingo. Vi lasciamo con, di nuovo, gli Obophobic con In Volo. E domenica prossima, ragazzi. Questa qua, Radio Wombat, 1-3-1-2. Ciao a you. Ama come nessun altro, come un volo leggero che uccide. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Come un volo leggero che uccide. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Aspetto di essere zitto. Resto a pensare, non riesco a capire il momento giusto, il modo di agire. Hey! Lo vedo riflesso, la rabbia di amore che brucia per questo. Adesso è tutto più semplice, semplice. Con un volo leggero che uccide. Aspetto qualcosa che forse non verrà.